Tu mi guardi, tu mi senti, ascolti un suono. Tu mi parli, tu che menti, io non perdono. Ti rincorro, tu che scappi, è un abbandono. Io che lascio, io che mollo, non credo proprio. Quando dai e non ricevi è causa di frustrazione. Un applauso sotto il palco è gratificazione. Lo sguardo di una ragazza provoca emozione. Quello sguardo quando ti lascia una maledizione. Quando penso, quando scrivo, sono da solo. Cerco un senso, ciò che vivo, ma non lo trovo. Chiudo gli occhi, un respiro e tento il volo. Apro gli occhi, lo respiro, mi schiaccio al suolo. Quando provi e non ci riesci, ogni speranza viene meno. Quando guardi verso l'alto e non è mai sereno. Inseguo dei risultati, ma la vita mi tira il freno. Forse ciò che inseguo è solo un arcobaleno. Quando ciò che senti non sai dare un nome, stai correndo ancora senza direzione. Quando poi ti accorgi che quello che cerchi è un nome, stai cercando un'evasione. Quando ciò che senti non sai dare un nome, stai correndo ancora senza direzione. Quando poi ti accorgi che quello che cerchi è un nome, stai cercando un'evasione. Quando piangi, quando ridi, senza motivo. Scrivo testi, uso rime ed è istintivo. Guardo avanti, ma non scordo ciò che ho imparato. Un sorriso, un ricordo, il mio passato. Molti amici, tre fratelli, un vero amore ed uno specchio dentro il quale devo fare i conti con me stesso. Guardo dentro il mio quaderno come in uno specchio. Mi rivedo in ciò che scrivo come in un riflesso. È già sera, sabato, ti vuoi sfogare. Quattro amici, quattro birre in un locale. Poi ti svegli, la partita puoi riposare, rassegnato giorno dopo a lavorare. Vorresti un lavoro che ti dia soddisfazioni, sicurezza di un futuro, trarre conclusioni. Poi capisci che quello che sogni è un'utopia, ma sai che solo sognando puoi volare via. Quando ciò che senti non sai dare un nome, stai correndo ancora senza direzione. Quando poi ti accorgi che quello che cerchi è un nome, stai cercando un'evasione. Quando ciò che senti non sai dare un nome, stai correndo ancora senza direzione. Quando poi ti accorgi che quello che cerchi è un nome, stai cercando un'evasione. Musica che scorre in vena, musica che non si frena. Musicanti come a Brema, alzi bassi terra trema. Buon umore, un'altalena, la mia vita in uno schema. Aspettative, una catena, soddisfarle un mio problema. Emozioni che poi scrivo, situazioni che descrivo. Pulsazioni dentro il petto, troppo orgoglio, un mio difetto. Stare fermo è frustrazione, vorresti una direzione. Quello che sogni, quello che cerchi adesso ha un nome. Quando ciò che senti non sai dare un nome, stai correndo ancora senza direzione. Quando poi ti accorgi che quello che cerchi è un nome, stai cercando un'evasione. Quando ciò che senti non sai dare un nome, stai correndo ancora senza direzione. Quando poi ti accorgi che quello che cerchi è un nome, stai cercando